Tra le righe, spunti, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Giusa Bank è una scrittrice tedesca che con il suo primo romanzo Der Schwimmer ha ricevuto nel suo paese diversi riconoscimenti. In Italia arriva con un libro pubblicato da Neri Pozza, I giorni chiari, storia ambientata all'inizio nel sud della Germania sul finire degli anni 60. Tre bambini, Aya, Seri e Karl, vivono in un villaggio dove gettano le basi giorno dopo giorno di un'amicizia solida e duratura nel tempo. I loro sono i giorni della vita sognante e lieve di tutti i bambini, anche di quelli che devono fare i conti con dolorose assenze, proprio come Aya, che vive con la madre Evi mentre il padre gira il mondo come trapezista e di tanto in tanto fa ritorno a casa stupendo gli amici della figlioletta con le sue acrobazie. Ma anche Seri non è da meno. Lei non ha mai conosciuto suo padre, morto improvvisamente poco dopo la sua nascita. Mentre il fratellino di Karl è salito sull'auto di uno sconosciuto un giorno e di lui non si è più saputo nulla. I ragazzi crescono e diventano adulti. Imparano quanto sia arduo il cammino fuori dai giorni chiari dell'infanzia. Dopo l'università e dopo un comune soggiorno a Roma, tornano nel loro villaggio d'origine e devono affrontare inimicizie, tradimenti e segreti ben taciuti nel corso del tempo. I giorni chiari è un romanzo intenso e poetico in cui la narrazione non viene mai interrotta dal dialogo diretto tra i personaggi, lasciando così alla storia l'ampio respiro del racconto puro che cattura il lettore e non lo abbandona fino alla fine, fino a quell'ultima pagina da cui sembra proprio difficile staccarsi. I giorni chiari di Giusa Bank per Neri Pozza. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.